lascia che io sia, lascia che implacabile t'abbatte, botta dopo botta, ti dedico sta botta, frotta di messaggi non subliminali, radiosegnali non convenzionali, narrazioni tossiche, interpretazioni drastiche, tocco certi tasti che la meta bassa, matta Luigi mistico, stile druido, trumo con le nuove formule sto mondo laido. Amato a modo Antonio, benedetto più di Joseph, eletto come Neo nella matrice, sono l'Alef, novello alla boccaccio quando faccio, straccio intreccio caccio, abbraccio slaccio su sto canovaccio, di nuovo più che Dante, divino commediante, brigante della lettera, fidante ante litteram, anche Mitterrand mi terrebbe fuori, metrica che slitta, litterata, tizza troppi cuori, yo, funk riff, spliff bliss, ma sweet kiff, light motif, just a miff, niff, jiff, winner if swift if, tough biff, sniff, sniff, stiff, now let me dismiss, piss, brisk, wing, if, sip, if, chip, slap, dismiss. Prova a prendermi, catch me if you can, prima di try to understand, climb I'm able to the top, climb I'm able to the end, scalo va bene fino in cima per non perdermi. Yo. Stesso sei nemico, tuo giurato come Luca. Il tuo problema è grosso più di Fabio, ma non temere fungo d'astrolabio. Un fungo il suo gigante, un fiore sparo fuoco tipo Mario. Magari troppo vario e letterario come MC, sì. Ti tocca ragionare su sti versi, proposta salutare, non la puoi rifiutare come disse Corleone. Ora gioco a fare il boss manco fossi Ugo. Drugo mio amico, questa è l'ora, questo è il luogo, hasta luego. Che fase d'asta non ce n'è per questo fuego, non tratto, non vendo, ne cago in todo il puto mondo, nel doppio fondo nascondo, vibre di contrabbando, fendo l'aria ti diffondo, roba seria grondo, stile a fiotti, ti scroccio nella faccia tipo Totti, tutti contro tutti eppure ognuno scende a patti. Ho nell'avanguardia nuovo bard, fury bar contre tard, se société de la farde, pas de bluff pour ce style, plus subtil qu'une essence volatile, je serai ton vendredi, si toi tes Robinson sur l'île, e adesso prova a prendermi, attrape-moi si tu peux, prima tenta di comprendermi, comprends-moi si tu veux, pendant l'instant je monte encore un peu, scalo va bene fino in cima per non perdermi. Più che Brown te la racconti, come Carlo e Bruno Conti che non tornano, te la bampi tipo Lino e te la bozzi come Umberto, imbattuta più di Federer di fisso ti sciverto, con gli occhi rossi tipo Valentino, ti insegno più di Pino, vado per la mia strada come Gino, e quel che sa da fare sempre fo, manco fossi Dario, come Materazzi Marco stretto il mio avversario, cecchino più preciso di Francisco Scaramanga, la testa tua più lessa di Fernanda non mi sta più dietro, ma vieni meco, fatti guidare metro dopo metro, l'amico Fritz ed io siamo mascagni tipo Pietro. Ah, adesso prova a prendermi. Au menu, gnu e nai nu, e a ci nu a de nu e nai nu e a nu a na. Au menu, gnu e nai nu, e a ci nu a de nu e nai nu e a nu a na. Au menu, gnu e nai nu, e a ci nu a de nu e nai nu e a nu a na. Catch me if you can, try to understand, climb I'm able to the top, climb I'm able to the end, scalo va bene fino in cima per non perdermi. Yo, catch me if you can, try to understand, climb I'm able to the top, climb I'm able to the end.